Noi della CISL siamo per il diritto all'accoglienza e per il dovere dell'integrazione, ma da soli, senza Europa, non ci riusciremo. E quanto ha detto il segretario della CISL piemontese Alessio Ferraris, aprendo oggi i lavori del congresso regionale del sindacato al Lingotto a Torino. L'Italia, come il vecchio continente, ha continuato Ferraris, ha bisogno degli immigrati per lenire le conseguenze di un invecchiamento inarrestabile della popolazione. In Piemonte questa componente della cittadinanza conta circa 425.000 persone, il 9,6% della popolazione totale. Slogan della CISE: diamo voce alle persone, futuro al lavoro.